La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata o per motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. L'articolo 107 contiene due principi importanti. La prima parte riguarda ancora le garanzie dei magistrati e stabilisce che i magistrati sono inamovibili, non possono essere dispensati o sospesi né destinati ad altra sede se non per decisione del Consiglio Superiore della Magistratura e comunque a seguito di un regolare processo, cioè di un procedimento disciplinare che garantisca la difesa e garantisca il contraddittorio. Ovviamente anche questo articolo è un articolo che chiaramente ci vuol ricordare che il potere politico non può utilizzare i magistrati per le proprie finalità. I magistrati sono e restano inamovibili. I magistrati possono essere spostati, sanzionati, dispensati, sospesi solo per decisione autonoma del Consiglio Superiore, che ricordiamo è l'organo di autogoverno, cioè l'organo scelto e votato dagli stessi magistrati per gestire in maniera indipendente la magistratura stessa. La seconda parte dell'articolo 107 stabilisce inoltre che i magistrati sono tutti uguali, si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni. E qui, nella diversità di funzioni, emerge la distinzione fra magistratura giudicante e magistratura requirente. Sappiamo che, soprattutto nel processo penale, l'accusa viene affidata in Italia al pubblico ministero. In alcuni paesi del mondo il pubblico ministero è un funzionario dell'amministrazione, quindi un dipendente pubblico qualsiasi, al servizio del ministero. In altri paesi, invece, il pubblico ministero è un magistrato. La scelta italiana è stata quella di affidare l'accusa, la pubblica accusa, a un pubblico ministero che è magistrato. E questa è un'ulteriore garanzia di indipendenza, perché affidare la pubblica accusa a funzionari pubblici, quindi dipendenti dal governo, potrebbe far sì che la pubblica accusa nel processo penale si trasformi in un'azione di carattere e di coloritura politica. Invece, la garanzia di avere un pubblico ministero magistrato fa sì che anche la pubblica accusa sia gestita con le garanzie della magistratura. Ecco allora che quando si diventa magistrati si può scegliere la funzione da esercitare, cioè si può scegliere di essere magistrato giudicante o magistrato requirente. Magistrato requirente significa il pubblico ministero. Il pubblico ministero è comunque un magistrato, ma svolge altre funzioni, perché svolge le funzioni di indagine e di accusa. Ed esistono nell'ordinamento giudiziario specifiche garanzie affinché non ci sia una commistione di poteri, perché sì, è vero che i pubblici ministeri sono magistrati, ma sono magistrati assegnati a particolari funzioni e quindi per diventare invece magistrati giudicanti devono ovviamente superare tutta una serie di verifiche affinché non ci sia alcun conflitto di interessi.